La Rosa Purpurea di Franco D'Assisti. Ben ritrovati amici, questa è La Rosa Purpurea, un saluto da Franco D'Assisti. Siamo arrivati all'ora di cinema di Radio 24 per parlare di una settimana davvero speciale per il cinema italiano, non solo per il cinema che uscirà e che è uscito in sala, che potrete vedere, di cui vi racconteremo come sempre durante la nostra trasmissione, ma anche per la notizia che ha, come dire, vivacizzato il centro della settimana, la conferenza stampa di annuncio dei film del Festival di Cannes, che ha dato grandissime soddisfazioni al cinema italiano, con un triplete davvero storico formato da Nanni Moretti, Matteo Garrone e Paolo Sorrentino, forse i tre registi italiani più rappresentativi, almeno all'estero, di questo nostro movimento cinematografico, con dati anagrafici un po' differenti. Certo, Nanni Moretti è di una generazione diversa, Sorrentino e Garrone hanno 2 anni di differenza, sono praticamente coetanei, però certo tre italiani che a Cannes tutti e tre si sono già fatti molto valere, hanno vinto premi molto importanti. Sorrentino arriva dall'Oscar, Garrone ha vinto 2 volte il Grand Prix, insomma c'è sicuramente un'Italia cinematografica che funziona e che piace in Francia. Poi che questo si trasferisca e si traduca in qualcosa la notte del 24 maggio, quando sarà assegnato il Palmarès di Cannes, lo staremo a vedere. Comunque dal Festival di Cannes vogliamo cominciare questa nostra trasmissione. Perché? Perché proprio il primo di questi tre film, quello di Nanni Moretti, Mia Madre, arriva al cinema in Italia, è arrivato al cinema proprio in questi giorni. Noi cominciamo ad entrare nel clima del film con questa clip e fra poco ne parliamo. Tu non dire stop! Non ti ricordi una battuta? Una sola battuta! Sei stanca? Sì. Capisco che sta attraversando un periodo complicato, anzi, se ne ha bisogno non si deve preoccupare, l'azienda le può dare ancora qualche mese di aspettativa. Sì, ma non serve, perché ho deciso e, insomma, non cambio idea. Mamma! E allora, la storia di due fratelli, soprattutto di una donna, appunto interpretata da Margherita Buia, una regista alle prese con un film piuttosto complicato, reso ancora più complicato da un attore americano che fa un po' di bizze, che ha il volto di John Turturro, ormai evidentemente affezionato anche al cinema italiano, in sala anche con un altro film, Tempo instabile con possibili schiarite. E allora, dicevamo, una regista che alle prese col suo film, ma alle prese anche col declino fisico di una anziana madre, una straordinaria Giulia Lazzarini, costretta in un letto d'ospedale, ormai praticamente vicina alla fine dei suoi giorni, e di un fratello, appunto interpretato da Nanni Moretti, che cerca di metterci una pezza, di tenere insieme queste due anime con la sua flemma, con la sua capacità di equilibrio che la sorella, appunto Margherita Buia, non sembra avere. Un viaggio dentro un passaggio della vita fatale per tutti noi, quello della perdita di un genitore anziano, che per la protagonista si trasforma in una sorta di resa dei conti con se stessa, anzi forse del primo momento di vera chiarezza sulla propria vita. Allora, pasta, pomodoro e basilico, però oggi pasta corta, perché l'altra sera i tagliolini erano un po' incollati, e poi una spigola. E le spine? Mamma, l'ho spinata tutta, L'ho spinata tutta, il sugo è ancora caldo, se controlli per piacere. Parmigiano. Questi cosa sono, dolci? No, quelli sono una cosa dell'ospedale. Sì. Allora, parliamo con Boris Sollazzo, che è in collegamento con noi. Ciao Boris. Ciao Franco, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Io credo che non posso dire altro che il film è bellissimo, nel senso che trovo che sia uno dei film più felici della seconda parte della cinematografia morettiana, forse il più felice, anche se forse è di fatto il primo di una terza, no? Di una fase nobilmente senile, dove senile non ha nessuna accezione negativa, semplicemente una accezione anagrafica. Prima parlavi appunto dell'età di Moretti. Moretti ha passato la soglia psicologica dei 60 anni e secondo me fa i conti con se stesso, facendo il suo film più personale e più politico. Se prima con Michela Bicello in qualche modo prendeva le sue ossessioni, le proiettava all'esterno, rendeva ridicole, combatteva una battaglia generazionale, e poi nel periodo forse un pochino più sterile ha combattuto soprattutto battaglie politiche. Adesso con Abemus Papam e con questa mia madre racconta quello che forse ha raccontato in tutto il suo cinema, cioè l'inadeguatezza, l'incapacità spesso di essere all'altezza dei compiti che la vita ci porta davanti, e lo fa con una summa del suo cinema, cioè con appunto quel Michela Picella che ormai è invecchiato, con la capacità di indagare il dolore che aveva nella stanza del figlio, ma meno ruvidamente, in maniera meno clinica e molto più empatica. Come al solito non si preoccupa più di tanto dell'aspetto visivo, gli interessa molto di più il contenuto, gli interessa molto di più cogliere qualcosa di profondo, anche se forse lo fa al contrario, nel senso che ci ritroviamo di nuovo in un film di Anni Moretti dove si gira un altro film, e questo altro film è un modo forse per Moretti di dire che il cinema italiano ha sbagliato a lungo nello scegliere i film, nello scegliere lo stile, e forse l'ha fatto anche lui in alcuni momenti. E con Margherita Bui, secondo me, a livello personale si rispecchia, a livello professionale invece dà una stoccatina ai suoi colleghi che non hanno avuto il coraggio forse di fare un cinema più audace, perché poi parliamoci chiaro, il film che dirige Margherita nel film di Anni Moretti è brutto. Non è una gran cosa effettivamente. Esatto. Boris, rimani lì perché andiamo avanti a parlare di mia madre, anche perché ci sono un paio di cose insomma che stimolano la discussione. Prima sentiamo come vanno le cose sulle strade, fra poco torniamo qui, dobbiamo anche parlare degli altri italiani a Cannes, fra poco. Rosa Purpurea. Eccoci ancora qua, La Rosa Purpurea, stiamo parlando di mia madre, il film di Nanni Moretti, sicuramente il film della settimana per quanto riguarda le uscite in sala, ma anche il film che insieme a quelli di Matteo Garrone e di Paolo Sorrentino rappresenterà l'Italia al Festival di Cannes. Ne parleremo fra poco, prima chiudiamo un attimo l'analisi di mia madre insieme a Boris Sollazzo. Boris, parlavi appunto di questo film, qualcuno ha parlato di una trilogia del lutto, mettendo insieme da una parte un film di Moretti come La stanza del figlio, dall'altra un film con Moretti come Caos Calmo, e adesso con questo terzo capitolo. Sono d'accordo con l'analisi che hai fatto, sono un po' più tiepido, diciamo così, sulla collocazione in cima alla classifica, sempre del tutto personale peraltro, di una ipotetica appunto graduatoria dei film di Moretti, perché ho fatto fatica a trovare in questo film una vera urgenza, un vero punto di vista. Cerco di spiegarmi: il Moretti che personalmente amo e che penso di poter dire conosciamo è il Moretti che ha sempre un po' un punto di vista particolare rispetto alla storia che racconta, almeno personalmente quello che amo di più, poi questa è una questione anche di gusti. Qui mi è sembrato prendere, come dire, la telecamera, la macchina da presa, e posizionarla quasi all'orizzonte e far scorrere la vita e la storia sotto gli occhi della macchina da presa, come una sorta di lungo fiume tranquillo, come diceva un film di tanti anni fa. Ecco, non è mancato secondo te un po' di Moretti regista in questo? Guarda, ti dirò, sono d'accordissimo con la tua analisi, io intendevo della seconda parte, tutti i film con Michele Apicella sono migliori secondo me, però della seconda parte, che secondo me era una parte meno felice dell'esperienza morettiana, ci troviamo di fronte al migliore. Per quanto riguarda quello che dici tu, a me piace anche questo, cioè di un Moretti che non si sforza di anticipare il proprio pubblico, di trovare l'intuizione, no? Di andare più veloce della storia, pensiamo a Palombella Rossa, lo stesso Abemus Papam, ma che per una volta si prende i suoi tempi, lo vedo molto più, l'ho visto molto più umano, molto più vicino, molto più lontano da quella figura snob, si intravedono le dolcezze del Moretti uomo e del Moretti regista. Non è un caso che secondo me lascia alla Bui se stesso, come aveva fatto in altre occasioni con Orlando e con altri attori, però in qualche modo lui si consegna la parte di Margherita Bui, cioè per una volta vuole mostrare altro anche di sé come attore. Non lo so, questa fragilità, questa anche debolezza che ho visto in mia madre, la considero una ricchezza, perché un regista a suo modo granitico qui ha percorso un'altra strada, e probabilmente, come dici tu, ci sono delle incertezze o viene a mancare un po' più il Moretti regista, però non mi dispiace, mi sembra che il Moretti artista non ne perda, ecco. No, certo, io mi riferivo anche in questa ultima fase, per esempio, a mio modo di vedere, Habemus Papam, con tutte le gli scivolamenti che poteva avere nella parte centrale, quando forse Nanni gigioneggiava un po' fra partite di pallavolo nei cortili del Vaticano, eccetera, però oggi, dopo un po' di anni, lo ricordi ancora come il film in cui c'è appunto quel punto di vista particolare, cioè il fatto di raccontare un papa, tra l'altro anticipando clamorosamente la storia, di raccontare un papa che non se la sente di fare il papa. In questo film, che non è assolutamente sbagliato, badiamo bene, è un film, tra l'altro, secondo me, dove anche ci sono due o tre spunti visivi molto importanti. Chi lo vedrà o chi l'ha già visto capirà, per esempio, il primo sogno di Margherita Bui fuori dal cinema Capranichetta, con quella lunga fila che sostanzialmente è la fila della sua vita a cui lei si rivolge. Sono momenti sempre, sempre molto belli. Semplicemente mi è sembrato che la macchina da presa fosse piazzata nel punto di vista che non è, almeno non è stato fino adesso, quello di un regista come Moretti. Comunque rimane ovviamente un film da vedere, peraltro un film che è partito piuttosto bene, perché nel primo giorno di programmazione è stato visto già da parecchia gente, secondo in classifica dietro il perenne Fast and Furious 7, ma su questo Moretti secondo me ci farebbe tante battute. E andiamo a parlare anche del resto del Festival di Cannes per quanto riguarda almeno l'Italia, Boris, perché questo triplete, come l'abbiamo chiamato, è davvero qualcosa di molto prestigioso. Ricordiamo il film di Matteo Garrone, Tales of Tales, il racconto dei racconti, tratto da un libro di Giambattista Basile, grande autore napoletano del XVI secolo, Lucunto degli Conti. È veramente una situazione fiabesca, con un cast internazionale straordinario, da Salma Hayek a Vincent Cassel, così come, dopo l'Oscar per la grande bellezza, Paolo Sorrentino porta La giovinezza, ancora una coppia di attori incredibile, tra Harvey Keitel e Michael Caine, protagonisti, due anziani che in un bellissimo albergo ai piedi delle Alpi riflettono sulla gioventù, sulla giovinezza, fra confusione e felicità. È veramente, come mai, Boris, una squadra con tutte le carte per vincerla questa battaglia, quella italiana. Soprattutto per il resto del concorso, che manca delle figurine più importanti, no? Gli Almodovar, gli Eastwood, quelli che di solito arrivano. Questo è un anno in cui diciamo ci sono sì Todd Haynes, Gus Van Sant, c'è, cioè, quel cinema indie nobilissimo americano, ci sono Jia Zhangkevus, Hu Xiaxian, c'è l'Antimos, che è un figlio di Cannes, come lo è anche Ma Yuen, però effettivamente dobbiamo essere anche obiettivi, gli assi, i nomi sono i nostri. Questo non vuol dire nulla, perché nei festival, poi soprattutto in questi festival in cui mancano quei nomi che non puoi non selezionare, spesso escono tanti bei film. Detto questo, è un segnale di salute, secondo me, devo dire, di Garrone, Sorrentino e Moretti, più che del cinema italiano. In questo senso forse la selezione di Minervini al Festival de Cannes è più un segnale di una generazione che, magari costretta ad andarsene come lui negli Stati Uniti, però dimostra ancora di potercela fare nonostante tutto e tutti. Secondo me quella di Garrone, Sorrentino e Moretti è anche la dichiarazione di un fallimento di un sistema, cioè quando hai talenti, quando hai Maradona, riesci comunque a farcela, ma dietro c'è poco. E non a caso tutti e tre sono grandi coproduzioni internazionali, non a caso tutti e tre sono fuori budget rispetto a qualsiasi altro film d'autore che ci sia in Italia, e questo fa capire comunque la nostra situazione. Sicuramente ce li godiamo, bisogna anche fare una battutaccia, anche se io aspetto molto i due film di Sorrentino e Garrone, come si è capito Moretti l'ho apprezzato molto. Bisogna fare anche una battutaccia di che, diciamo che Frémaux e Cannes sono molto abitudinari per andare a vedere un film Garrone, Moretti e Sorrentino che Cannes non ha preso. Dobbiamo andare molto molto in là con gli anni, insomma, tende a fare scelte che probabilmente erano già tali 4-5 mesi fa, di sicuro varie settimane fa, vista la foto che è uscita su, certo, assolutamente, comunicato congiunto, foto congiunta, eccetera eccetera. No, va anche detto, tra l'altro, che forse mai come, anzi sicuramente mai come quest'anno, questi tre registi sono establishment, nel senso che ti porti a casa un Oscar, come fai a non averlo in concorso se il suo film è pronto? Uno che ha già vinto due Gran Premi da te, come fai a non averlo in concorso se il suo film è pronto, la congiuntura astrale o produttiva ha voluto che i tre film fossero pronti insieme. Forse piangerà un po' Venezia, chi lo sa, che poteva magari avere uno spunto così, ma mi sembra francamente di poter dire che ormai questi, come hai detto anche tu, sono registi da Cannes, e quindi se a Cannes hanno un film pronto, Cannes li accoglie, insomma, ben venga per noi che ci portiamo a casa una visibilità cinematografica che ci mancava da tanti anni. Boris, adesso stai con noi un attimo perché giochiamo insieme, cominciamo a far sentire ai nostri ascoltatori la prima traccia del film misterioso di oggi e poi parliamo ancora delle uscite in sala. Quando inizierai a usare la testa per qualcosa di più importante? Cioè andare a college come fai tu, per farmi spiegare cose che già so. Sei incredibile. La Rosa Purpurea, @radio24.it, se avete già indovinato di che film si tratta, per provare a vincere una delle due copie in Blu-ray di questo film, più tardi vi faremo ascoltare un'altra traccia. Allora, cambiamo decisamente argomento, clima cinematografico, genere, eccetera, perché andiamo proprio al prodotto in sala parlando di Black Sea. Torna il cinema di sommergibili dell'orrore, chiamiamoli così. Tante volte negli abissi del mare si è sviluppato l'horror delle relazioni umane o addirittura extraterrestri. Ecco, in questo caso le atmosfere sono più o meno quelle per il capitano di sommergibili Robinson, che è alle prese con un'impresa davvero straordinaria: recuperare un carico d'oro contenuto in un sommergibile tedesco della Seconda Guerra Mondiale. Noi qualche posto da qui a qui. Vuol dire che siamo su una di queste due dorsali, o ci saremmo frantumati, giusto? Se fossimo su questa dorsale, saremmo vicini all'U-Boat. Questo sottomarino è stato progettato esattamente come l'U-Boat. Quindi troviamo l'U-Boat, ci entriamo e prendiamo l'albero di trasmissione. È stato in acqua per 70 anni. Inutile ora. No, no, ti sbagli. Il Mar Nero è anossico in profondità. Niente ossigeno, niente decadimento. Questo è un momento di Black Sea, tra l'altro il protagonista Jude Law, che si mette alla prova in un film appunto di genere, come si può immaginare. Boris, genere questo appunto del film sottomarino, mi viene in mente Caccia Ottobre Rosso, per ricordare uno, o in un altro senso, non era molto sottomarino, ma anche di Abyss. Cosa ancora da dire questo genere, e riesce a dirlo attraverso questo Black Sea? Secondo me riesce a dirlo, è un genere pericolosissimo perché mette alla prova i registi come mai, come nessun genere, perché di fatto gli spazi sono quelli che sono e le difficoltà anche di creare un thriller, una suspense, sono complicate dal fatto che gli spazi e i tempi non possono dilatarsi più di tanto, e quindi i bravi registi, quelli che sanno dove mettere la macchina da presa, quelli che sanno come muoverla e come anche nasconderla, riescono senza dubbio a far bene. Poi è un genere pericolosissimo perché insomma può venirti fuori Caccia Ottobre Rosso, può venirti fuori metà della cinematografia di Steven Seagal, insomma chiaramente i risultati sono molto diversi. Qui abbiamo un grande regista che è Kevin MacDonald, uno che con l'acqua ghiacciata o appunto sottomarina fa quello che vuole, è uno che conosce bene le dinamiche dell'orrore psicologico, del terrore psicologico, e Jude Law, come raramente gli capita, ma sempre più spesso ultimamente, è molto concentrato sulla parte, di solito è distratto, di solito è gigione. Qui invece agisce in parte per sottrazione, soprattutto nei momenti più importanti, e sa andare sopra le righe quando è necessario, quando magari il ritmo del film deve essere sostenuto, perché appunto può succedere poco. E alla fine secondo me è un ottimo film di genere, molto interessante il percorso che sta facendo Kevin MacDonald, che passa dal biopic al documentario e adesso va a fare un film tout court. E devo dire insomma, sicuramente promosso, sicuramente film da sabato sera che potrà piacere a tutti, ai palati fini e anche a quelli che si vogliono solo divertire. E appunto mi sarebbe piaciuto, ecco, faccio una provocazione, vedere a Cannes per esempio un film come Black Sea in concorso, una cosa alla James Gray, insomma un genere che viene nobilitato per la sua fattura e non solo per il contenuto di quello che racconta. E vabbè, in attesa che i grandi festival si accorgano appunto di un certo cinema che tra l'altro fino a qualche anno fa ogni tanto faceva capolino tra le righe, diciamo, dei palinsesti dei festival, noi diamo la linea alla regia, torniamo fra poco per parlare di due vacanze molto particolari, di un cinema francofono, fra The Fighters e le vacanze del piccolo Nicolà. sta per spuntare un campo di grano tra i grattacieli milanesi. Abbiamo chiesto a questo artista di dare questo segnale al mondo: la terra deve essere anche usata per il tema dell'Expo, che inizia il pianeta. Maturerà o non maturerà? Perché o è il solito ritardo di Expo? Lei, come sindaco di Cernobbio, rivendica la paternità dell'idea di fondere questi comuni. Esatto, poi sul nome si vedrà. Sul nome si vedrà. Prima di tutto è una questione legata al miglioramento dei servizi. Ma si potrebbe far scegliere il nome anche ai cittadini? Assolutamente sì, sarebbe una bella, forse sarebbe l'idea migliore. Si può fare con Alessio Maurizi e Carlo Gabardini. Il sabato alle 7.30 e la domenica alle 8.30 su Radio 24. La Rosa Purpurea. Ancora qui La Rosa Purpurea, terza parte del nostro programma. Altri due film che arrivano in sala in questo fine settimana e che abbiamo voluto mettere insieme, sebbene non c'entrino nulla l'uno con l'altro, ma semplicemente perché sono due film che raccontano un'estate in maniera molto molto diversa e due età particolarmente diverse. The Fighters, per cominciare, film premiatissimo nei vari festival, arriva da Cannes dello scorso anno, è diretto da Thomas Culley e racconta l'estate di un giovane Arnaud, un'estate che sembrerebbe trascorrere tranquilla fino al momento dell'incontro con una ragazza molto molto carina, apparentemente fragile, Madeleine, ma che è appassionata di allenamenti, di quelli duri e puri, no? E anche un po' di catastrofismo da profezia. Ebbene, i due si incontrano, sono due persone che hanno una speranza sul futuro molto molto diversa. Uno praticamente giace nella vita, l'altra invece aspetta la fine del mondo. Nasce una storia d'amore, ma si trasformerà subito in una storia di sopravvivenza. Voglio arruolarmi. Che sta facendo con le tegole? Nuoti in modo strano. Non è strano, è da combattimento. Cosa? È da combattimento. Beh, se le ragazze quest'estate sono tutte così, tienitele pure. Una birra? Come fai a farlo? Facendomi male. Non ci resto in Francia, non voglio fare la muffa qui. Non mi preoccupa la crisi, c'è ben di peggio in arrivo. Ma non lo vediamo. C'è ben di peggio in arrivo. Boris, molto originale questo The Fighters, che ha colpito la platea di Cannes e anche il pubblico nei paesi dove è uscito è corso a vederlo. Sì, oggi non ci liberiamo di Cannes, meno male, perché questo forse era uno dei film più belli che abbiamo visto l'anno scorso non fu un grandissimo anno, anche se c'erano grandissimi nomi, e questo film alla Kenzen fece letteralmente spellare le mani al pubblico e ai critici, che si entusiasmarono per l'originalità, perché come capita ai bravi cineasti, si prende un genere ormai consumato, se vogliamo, no? Il romanzo di formazione che dura un'estate nella linea d'ombra, nella linea di passaggio tra una coppia che non lo è o forse lo è o chi lo sa, è qualcosa che abbiamo visto e stravisto e che in qualche modo, insomma, è stato fatto bene. È forse impossibile da migliorare dalla Nouvelle Vague e non solo, e qui però c'è la capacità di indagare il sentimento, di indagare la crescita veramente percettibile giorno per giorno, e un rapporto credibile nonostante sia strano e straordinario, che ha davvero qualcosa di prezioso, ha davvero qualcosa di molto potente. È uno di quei film che tu guardi a qualsiasi età e ti scaraventa dentro se stesso, ti fa immedesimare, ti fa ricordare, ti fa pensare, ti fa anche capire determinate cose. È un film forse che prende anche qualche scorciatoia emotiva, perché se lo può permettere, ma è anche ottimamente girato, è davvero qualcosa di speciale. È una bella settimana, non possiamo negarcelo. E non neghiamocelo, anche perché fra poco parleremo delle vacanze del piccolo Nicolà. Prima però giochiamo insieme con la seconda traccia del film misterioso di oggi. Se mia zia fa domande, siamo stati a scuola tutto il giorno, capito? Siamo saltati giù da una finestra. No, silenzio. Siamo saltati giù da una finestra. Un modo di parlare molto molto riconoscibile per chi ha visto ovviamente il film in sala. La Rosa Purpurea @radio24.it, scriveteci come sempre il titolo del film e il vostro indirizzo di posta privata per provare a vincere una delle due copie in Blu-ray di questo film che sveleremo la prossima settimana. Allora, sempre Francia, ma indietro nel tempo, 1950-60, siamo a cavallo di quegli anni colorati e pieni di leggiadria. Nel film di Laurent Tirard, Le vacanze del piccolo Nicolas, le tanto attese vacanze estive arrivano, il piccolo Nicolas può andare al mare con la sua famiglia, anche l'odiata suocera va subita in questo caso e portata al mare, chiaramente ne succederanno di tutti i colori. Vuoi andare a dire a quel signore che non è solo sulla spiaggia? Ma non durerà a lungo, sai, nel cinema non lavorano mai tanto. Volta! Ora ne ho abbastanza! Azione! Sto parlando con lei! Io non so chi sia, signore, ma non siamo a Cinecittà! Quando l'ho vista sulla spiaggia oggi è stata come una rivelazione. Mi sono detto: che donna! Questa sì che è una femmina! Ecco, è lei quella che voglio. No, non sono un'attrice. Ma non ha nessuna importanza! Luca Zingaretti, Valérie Le Mercier, Kad Merad e i bambini di questo film che racconta un'estate di quelle da sogno, anche se poi magari dentro ci sono anche momenti da incubo, ma un'estate di quelle da nostalgia, quantomeno per chi aveva appunto il gusto e il ricordo delle vacanze di un tempo spensierate, dove bastava poco per sentirsi dei signori. Boris, quello che mi è piaciuto in questo film, a parte che è un film assolutamente family da condividere con tutta la famiglia, senza problemi, figli compresi, è il gusto, e secondo me in questo i francesi sono imbattibili, di raccontare storie anche fatte a sketch in questo senso, dove non è la trama, diciamo, che tiene su il film, ma sono proprio i momenti, anche in certi momenti prevedibili, se vogliamo, ma con un gusto e una leggerezza che ti fa stare con un mezzo sorriso sulle labbra per un'ora e mezza e uscire dalla sala contento. Ecco, esattamente la fotografia di quello che hai detto è una delle ultime parole, mezzo sorriso sulle labbra, il pregio e il difetto di questo film, e a mio parere anche perché forse noi non lo possiamo comprendere appieno, nel senso che conoscendo molto bene la Francia so che Le Petit Nicolas è sostanzialmente l'incrocio tra una Pippi Calzelunga e Gian Burrasca, e però è qualcosa di estremamente francese, un'icona dell'infanzia francese, con tutti i vizi, i vezzi, i pregi e i difetti che può avere un bambino francese e una vacanza francese e un film francese. Il primo era molto efficace, secondo me, perché in qualche modo ti presentava questo personaggio, te lo rendeva simpatico, e non era facilissimo, soprattutto per l'ambiente, e ti trascinava dentro questo carnevale appunto un po' giamburraschesco, con questi bambini davvero molto efficaci, molto divertenti, e adulti che sapevano seguirli. E qui francamente succede più o meno lo stesso, bisogna essere onesti nel giudicarlo, nel senso che né il ritmo, né la capacità degli attori, né la sceneggiatura, tantomeno il regista peggiorano, però si fa fatica a capire perché sia stato fatto un altro film così. Probabilmente i francesi, e come è successo, farà impazzire, perché ci sono stati ottimi incassi. Per un pubblico che non sia transalpino, secondo me sconta un po' di stanchezza, perché non c'è la sorpresa del primo film né il salto di qualità del secondo. È un buon prodotto family, come dicevi, che certo non si fa disprezzare, e che ti lascia proprio con quel mezzo sorriso. Se vi basta il mezzo sorriso, va bene così. Va bene così, a quel punto, insomma, per essere, diciamo che per essere Cile Panettone per infanzia, in un certo senso, tutto sommato, se la sono cavata bene. A questo punto diamo di nuovo la linea alla regia per sentire come vanno le cose sulle strade. Fra poco torniamo insieme per parlare di altro cinema, perché arriva sul palcoscenico un grande film di Giuseppe Tornatore, come una pura formalità. Sarà con noi il grande attore teatrale Glauco Mauri, che lo interpreta. Fra poco La Rosa Purpurea. Ed eccoci ancora insieme alla Rosa Purpurea, quarta parte. Il nostro motto, lo sapete, è tutto il cinema che c'è, cioè tutto il cinema che c'è non solo sul grande schermo, che rimane il nostro più fido alleato cinematografico, ma anche nelle altre arti, e lo facciamo spesso, l'abbiamo fatto col musical, lo facciamo anche con la prosa, perché al Teatro Carcano di Milano fino al 26 aprile c'è Una pura formalità, tratto dal film di Giuseppe Tornatore del 1990. 1994, ancora oggi considerato uno dei film più belli del regista siciliano, sicuramente uno dei più anomali, dei più particolari. Ricorderete Gérard Depardieu, Roman Polanski e un giovanissimo Sergio Rubini nel cast di questo noir claustrofobico, quasi tutto in una stanza. Ebbene, questa volta il protagonista sul palcoscenico del Carcano è Glauco Mauri, uno dei più grandi attori italiani di teatro, senza tema di smentita, che ha il collegamento e al telefono con noi. Un saluto e benvenuto alla Rosa Purpurea. Grazie, grazie, benvenuti a voi anche. Allora, Glauco Mauri, come si porta in scena un film di così pochi anni fa, tutto sommato? Perché di solito queste operazioni riescono quando c'è di mezzo un po' più di tempo, invece qui è un film ancora attaccato alla pelle dello spettatore contemporaneo. Che tipo di lavoro avete fatto? Dunque, innanzitutto è la prima volta che io faccio un adattamento, una riduzione, chiamiamola come vogliamo, di un film. E la cosa, vorrei partire telegraficamente dicendo però perché ho scelto di fare questo adattamento teatrale. La cosa che mi ha colpito è che io anni fa ho messo in scena Delitto e Castigo di Dostoevskij, dove c'è Porfiri, che è interpretato da Mera, che è un magistrato, diciamo così, un commissario, oggi si direbbe, che cerca di far confessare al giovane Raskolnikov di aver commesso un delitto perché ha ucciso una usuraia con un'ascia. Lui è convinto, Porfiri, che lui sia colpevole, ma vuole che sia lo stesso Raskolnikov a confessare, per questo può donare una specie di dignità a quell'orrore che ha compiuto con l'assassinio. Qui esiste lo stesso rapporto tra un commissario che cerca di, attraverso l'astuzia, a volte la violenza, l'ironia e anche la tenerezza, di far confessare a un grande scrittore, un uomo che è accusato di un omicidio, di far confessare il delitto. Si svolge, si comincia tutto come si suol dirsi quando in questura ti dicono: guardi, qualche piccola domanda, ma pura formalità. E invece questa pura formalità si trasforma in un lunghissimo, affascinante interrogatorio, dove un uomo cerca di aiutare un altro uomo a ricordare tutto quello che ha sepolto dentro di sé, perché gli uomini, come dice il protagonista Onof, interpretato da Roberto Sturno, dico, gli uomini sono eternamente condannati a dimenticare le cose sgradevoli della loro vita, e più sono sgradevoli e prima si apprestano a dimenticarle. Certo. Ecco, la cosa che mi ha colpito è questo rapporto umano che esiste tra un uomo che aiuta un altro uomo a cercare di comprendere quel viaggio bellissimo, a volte terribile, ma sempre affascinante, che è la vita. Ecco, a livello visivo proprio, questo forse era uno dei film che più si prestavano a essere riportati su un palcoscenico, perché l'unità di luogo è garantita anche nel film. Quindi avete, diciamo, riproposto la scena del film, avete fatto delle modifiche? Dunque, naturalmente io nell'incontro che ho avuto con Giuseppe, con Tornatore, ho detto chiaramente che, siccome consideravo questo suo film, che tra l'altro Tornatore lo considera forse uno dei suoi più belli, anche perché all'inizio, nel 94, quando è uscito, ha avuto un'accoglienza abbastanza perplessa, come lei ha detto, mi sembra, anche prima, da parte della critica. Il film ha già una sceneggiatura che è sospesa anche tra cinema e teatro, perché tutto si svolge in una stanza. Naturalmente il cinema ha le sue ragioni, che la ragione del teatro non conosce, una conosce diverse. La cosa fondamentale è stata ambientarlo in un luogo ambiguo, che apparentemente è una grande stanza della polizia, ma poi è un ambiente strano dove tutto deve creare inquietudine da parte anche del pubblico. La difficoltà è stata più che altro non tanto nel... Poi più un'opera è importante, più offre agli interpreti la possibilità di scorgere, di tirar fuori, di far germogliare da quest'opera altre sfumature poetiche, umane, che l'opera contiene ma che non sono state messe in evidenza. E la cosa più grave per me, la cosa più difficile è stata interpretare due personaggi. Io non ho niente a che fare con Polanski e Roberto Sturzo non ho niente a che fare con Depardieu. Quindi si trattava, nel rispetto il tornatore, di rendere questi due personaggi non adattabili al nostro temperamento, alla nostra sensibilità, ma ricondurli ad un discorso in cui noi come interpreti ci potevamo trovare giusti, onestamente giusti. Questa è stata la cosa più difficile. E la cosa che mi ha fatto piacere è stato quando, a parte il fatto che Tornatore, dopo che gli ho detto certe mie idee, cioè, mi ha lasciato completa carta libera, è venuto, non ha voluto leggere una riga del mio adattamento, ma è venuto soltanto alla prima di Roma. Ed è una cosa che mi ha fatto molto piacere. Dice, io sono arrivato con una certa perplessità, perché era la prima volta che vedevo questo mio film che lui ama tanto, portato sulle scene. Ebbene, ho visto, probabilmente questo, qualche mobile spostato, qualche parete dipinta in modo diverso, però mi sono ritrovato a casa mia. Vabbè, questo mi ha fatto molto piacere. Un grande complimento da parte di un premio Oscar. Ho rispettato il suo pensiero, così anche adattandolo alla mia personalità. Glauco Mauri, grazie davvero per essere stato con noi. Ricordiamo ancora Teatro Carcano di Milano fino al 26 aprile, Una pura formalità di Giuseppe Tornatore con Glauco Mauri. Grazie ancora. Arrivederci. E allora, a questo punto noi siamo alla zona del nostro programma dedicata al cinema da vedere in casa. Fra poco tutti i consigli dalla redazione di Film TV. Cominciamo però con il risolvere, il gioco di 7 giorni fa. Dobbiamo arrivare molto al di là della nostra personale esistenza. Dobbiamo pensare non come individui, ma come specie. E allora si trattava di Interstellar, e questo è il film, il grande film di questa stagione con cui abbiamo giocato la settimana scorsa. I primi più pronti tra i tantissimi ascoltatori che hanno risposto a questo nostro game sono stati Giacomo Scarabicchi di Calenzano, provincia di Firenze, e Sara Morandi di Varese. Saranno loro a ricevere il Blu-ray di questo film, di cui ci facciamo raccontare tutto da Giulio San Giorgio di Film TV. Ciao Giulio! Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Sì, esce in Blu-ray e DVD l'ultimo film di Christopher Nolan, che rimane uno dei pochi registi in grado di creare forme di intrattenimento altamente spettacolare, ma capaci di sfidare l'intelletto dello spettatore con film rompicapo, chiedendo sempre a chi guarda di essere attivo nel decrittare quel che sta succedendo nel film. Qui con Interstellar ci regala un film di fantascienza umanista che è l'inno al desiderio umano di esplorare nuovi orizzonti, e anche uno struggente dramma d'amore paterno e filiale. Un film sicuramente ambizioso che ha spaccato la critica e che riluce nell'edizione home video con un video pressoché perfetto, se si accettano un paio di dubbi sui bui, e con un audio che esalta il lavoro sul sound design. Gli extra raggiungono quasi le 3 ore di contributi, tra cui un approfondimento di 50 minuti sui fondamenti scientifici alla luce alla base della pellicola. Volevo segnalare che tra l'altro è disponibile nel negozio digitale di Film TV, si chiama Film TVOD, l'ultimo numero di Lost Highway dedicato proprio a tutto il cinema di Christopher Nolan. Assolutamente un approfondimento da non mancare, questo con Christopher Nolan. Giulio, dalla televisione questa settimana ci sembrava giusto cominciare ad avviarci verso le celebrazioni del settantennale della Liberazione, con un bel po' di film che passeranno durante la settimana prossima riguardanti proprio la Seconda Guerra Mondiale o comunque la Resistenza. Sì, tra i tanti film dedicati alla Resistenza, ai 70 anni del 25 aprile 1945, ne abbiamo scelti 3, indicativi di 3 rapporti differenti con la storia. Partiamo da venerdì 24 aprile alle ore 21.05 su Rai 3 con Roma Città Aperta, film girato a caldo sulle ceneri di una Roma distrutta e liberata, riproposto qui in versione restaurata, un capolavoro assoluto che racconta il passato recente di un paese e prova a guardare oltre, in un melodramma popolare che influì ovviamente anche alla voce del neorealismo su tutta la cinematografia mondiale. In contemporanea, sempre venerdì 24 alle 21.25 su Re Storia, ci spostiamo avanti di 30 anni negli anni 80 con La notte di San Lorenzo dei fratelli Taviani, che ricordano la Toscana occupata con un racconto che ha invece il passo fiabesco del ricordo e del mito. E infine vorrei segnalare La memoria degli ultimi sulla F alle 20 di sabato, fin del 2013, in cui vengono intervistati stati partigiani oggi, ricordando com'era quell'Italia che non c'è più. E allora tutto questo in televisione la prossima settimana. Dedicheremo spazio anche noi ai film sulla Liberazione nella prossima nostra puntata, che andrà in onda proprio il 25 aprile, tra l'altro. Grazie Giulio San Giorgio, a risentirci. Ciao Franco, alla prossima. E allora siamo arrivati verso la fine della nostra trasmissione, mi resta il tempo per ricordarvi la nostra iniziativa Una Mattina, proprio dedicata al 25 aprile con l'Alleanza delle Cooperative Italiane Lombardia e la Rosa Purpurea Radio 24. Ogni settimana i nostri ascoltatori possono scegliere fra 10 film che hanno raccontato la Seconda Guerra Mondiale o la Resistenza dalla home page del nostro sito. E allora i film di quest'ultimo blocco sono La lunga notte del 43, Le quattro giornate di Napoli, Polvere di stelle, Cristo si è fermato a Eboli, Cari fottutissimi amici, L'uomo che verrà, Il pianista, Underground, Casablanca e La sottile linea rossa. Scrivete, esprimete la vostra preferenza e uno di questi film sarà il film della Rosa Purpurea per il 25 aprile. È tutto, grazie per averci seguito, appuntamento alla prossima settimana, un saluto da Franco D'Assisti.